Benvenuti e benvenute alla Fuga del Gatto, la puntata di oggi, di domenica 30 ottobre, non mi ricordo neanche più che mese è, ottobre ancora, è del 2016, e come tutte le domeniche alle 4:30 circa provo a farvi riprendere dalle fatiche del sabato sera con un po' di musica classica molto colta. Oggi parliamo in realtà di qualcosa di estremamente colto, o più che altro qualcosa che viene trascurato tantissimo anche dai più, i più raffinati e insomma, qualcosa di veramente da nerd, e quindi ce lo rivendichiamo qui alla Fuga del Gatto, ci piacciono un sacco le cose nerd, e quindi oggi parleremo della viola da gamba, uno strumento appunto molto in voga, usatissimo, di gran moda nei secoli addietro, ma in tempi più moderni completamente no, ma insomma molto più desueto e finito un po' nel dimenticatoio, per usare un termine che piacerebbe un sacco alla trasmissione l'Accademia della Brusca, anch'essa molto colta. E prima di iniziare vi ricordo tutti i contatti del Wombat a cui potete trovarci, scriverci e quant'altro, e il sito prima fra tutti wombat.noblogs.org, Twitter che è Radio Wombat Fi, la pagina Facebook Radio-Wombat-Firenze e la casella di posta mail apposta wombat@insiberia.net. Scriveteci, contattateci, seguiteci. E iniziamo appunto a parlare della viola da gamba con uno dei maggiori gambisti e compositori per viola da gamba, appunto, un francese vissuto nella seconda metà del 600, uno che insomma, diciamo che di queste cose ne sapeva un bel po', tant'è che pare sia uno che ha contribuito non poco allo sviluppo di questo strumento, migliorandolo proprio fisicamente e smontandolo, rimontandolo e rendendolo ancora più bello di quello che è. Poi parleremo più approfonditamente di che cos'è questo strumento, dei suoi maggiori interpreti e compositori, ma adesso vi faccio sentire questo pezzo giusto per darvi una prima idea di come suona la viola da gamba. Monsieur de Saint-Colombe, l'autore di cui vi parlavo poc'anzi, ne parleremo poi meglio dopo, vi racconterò un pochino meglio più in là di chi era e cosa faceva. Il pezzo si intitola Infidel e in questo caso l'esecutrice è una gambista piuttosto brava che si chiama Hill Pearl, e a voi questo pezzo. Thank you. Quello che abbiamo sentito era appunto Monsieur de Saint-Colombe con l'Infidèle. La viola da gamba è uno strumento a corde, come avrete potuto notare, 6 o 7, dipende, accordate in successione di due quarte. Ce ne sono di diverse dimensioni, dalla più piccola, che viene chiamata la viola soprano, alla più grande, contrabbasso di viola o anche detto violone. La famiglia delle viole è estremamente numerosa in realtà, o meglio lo era al tempo, ormai chi suona la viola da gamba in realtà diciamo che non ha a disposizione tutta la gamma come poteva esserci nel 600. Tra le varie viole esiste anche una, ad esempio, che si chiama viola bastarda, che pare si derivi il suo nome dalla particolare difficoltà di utilizzo. L'invenzione di questo strumento sembra risalire al XV secolo in Europa. Anche se effettivamente le informazioni chiaramente sono abbastanza confuse, non chiarissime, anche se esistono dei trattati molto dettagliati sull'utilizzo di questo strumento. In ogni caso, anche se molto probabilmente è stata inventata in Europa, i confini musicali a quell'epoca erano probabilmente molto più fluidi di come sono adesso. Ci sono infatti evidentemente grandi influenze arabe in questo strumento. Per esempio, lo strumento moresco, il rebab, è probabilmente uno dei suoi antenati più diretti. Basta sentirne un po' il suono e anche in realtà guardarlo. Ora, il prossimo pezzo che vi faccio sentire è di Tobias Hume, Musique et Mirth si chiama. È un pezzo più breve del precedente, sono circa 2 minuti. Tobias Hume è un personaggio piuttosto interessante, nato nella seconda metà del 500, ed era un mercenario inglese per l'esercito svedese e russo. Era un personaggio rude, veniva definito, rissoso, scherzoso anche. I titoli, basta guardare i titoli dei pezzi, delle sue composizioni, e ce n'era uno ad esempio, il primo che mi viene in mente era Tobacco, Tobacco, Tobacco, Tobacco, che è un'invocazione al tabacco, che immagino in tempi di guerra nel 500 evidentemente era degno di meritare un pezzo. E questo personaggio appunto non era, non pensate come la musica di quel tempo come qualcosa di necessariamente colto e riservato ai nobili, tutt'altro, anzi in realtà la viola da gamba, poi ne parleremo meglio, era lo strumento più diffuso e quindi in qualche modo anche popolare dopo il liuto. Quindi in realtà era perfettamente normale che anche un mercenario inglese avesse a disposizione una viola e se la portasse pure in guerra e nei tempi morti la suonasse e componesse. Ora, niente, vi faccio sentire questo pezzo che è interessante, piuttosto diverso dal primo, ma chiaramente parliamo già di anni un po' diversi precedenti. La quinta corda della viola da gamba veniva chiamata bordone, un termine a cui anche adesso ci si riferisce quando si vuole indicare una melodia composta da una sola nota suonata armonicamente in continuazione, in ripetizione. Un termine in realtà usato anche molto spesso adesso, ma nella musica antica e barocca forse ancora di più. In realtà questo bordone probabilmente è l'antenato del moderno drone, quello che adesso oggi in questi anni viene suonato con le macchinette e gli effetti elettronici. Tutta la musica drone effettivamente ricorda un po' in qualche maniera il bordone anche della viola da gamba. Questa era la quinta corda, in realtà invece la sesta corda mantiene fisso il suono più basso dello strumento. E poi pare che fu Monsieur Saint-Colomb, quello di cui parlavamo all'inizio, a inserire una settima corda ancora e dal suono ancora più basso. Quindi c'era una quinta corda che faceva da bordone e rimaneva essenzialmente a fare l'armonia, una sesta corda che produceva un suono molto molto basso, fisso, e l'ultima corda, quando c'era, perché non sempre la viola aveva sette corde, che aveva un suono ancora più basso. Il risultato di tutto ciò è un'armonia di suoni molto particolare e malinconica, penso avrete notato. Se si ascolta con attenzione si possono sentire, discernere gli armonici ben distinti l'uno dall'altro, eppure perfettamente armonizzati in tutto un insieme. Il prossimo pezzo che vi faccio sentire in realtà è fatto da 6 pezzi in realtà, e dura una ventina di minuti. È il pezzo più lungo che vi faccio sentire oggi, però secondo me vale veramente la pena, forse è uno dei miei preferiti di questa scaletta, ed è di Carl Friedrich Abel, la suite in re minore. E vabbè, poi dopo parleremo meglio di tutti questi vari compositori. Intanto questo qui, sentitevelo, è un po' posteriore sicuramente a Tobias Hume, e secondo me fa delle cose proprio belle. L'esecutore è Paolo Pandolfo. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. No, cioè, se non vi è piaciuto tutto questo pezzo, siete delle persone veramente brutte, aride e poco simpatiche. Ma non vi dovete preoccupare troppo, perché in realtà noi nerd della musica antica e barocca ce ne freghiamo e siamo abituati a queste cose, non ce la prendiamo troppo. Era Carl Friedrich Abel, o Friedrich, anzi, si dovrebbe dire meglio, Abel, e la suite in re minore. È divisa in 6 pezzi, arpeggiata, minuetto, allegro, allegro, adagio, minuetto. Tra i compositori più importanti per viola da gamba abbiamo il già citato all'inizio Messie de Saint-Colomb, Marin Marais, suo allievo, di cui parleremo alla fine, Bach anche, con le sue sonate per viola da gamba e clavicembalo, e Telemann, Carl Friedrich Abel, mamma mia, questo nome è difficilissimo, l'abbiamo detto prima, Claude Gervais, Marc-Antoine Charpentier, Arcangelo Corelli, anche italiano, François Couperin, Tobias Hume, anche lui ne abbiamo parlato all'inizio, Diego Ortiz, Henri Purcell e Girolamo Frescobaldi. Girolamo Frescobaldi, un ferrarese della fine del Cinquecento, è un personaggino anche lui piuttosto interessante, come il già citato Tobias Hume, che era un mercenario. Lui non era un mercenario, ma ha avuto una vita altrettanto turbolenta e movimentata, per tutt'altri motivi si può dire. Ma oggi non c'è abbastanza tempo per parlare per bene di Girolamo Frescobaldi, invece se lo merita, e quindi penso che più in là gli dedicheremo una puntata tutta per lui. E però adesso almeno vi faccio sentire questo pezzo di Frescobaldi, appunto la canzone prima a basso solo, sesta, detta anche l'altera. E questo era appunto Girolamo Frescobaldi con la canzon prima a basso solo, l'altera anche detta, per viola bassa, una di quelle viole di cui si parlava prima, e clavicembalo. In quanto a popolarità e diffusione, come vi raccontavo all'inizio, le viole erano seconde soltanto al liuto. Se il mondo fosse più bello, secondo me dovrebbe essere ancora così, ma purtroppo la storia ha preso un'altra direzione e quindi mi devo adeguare. Nel XVI e XVII secolo, nell'Inghilterra elisabettiana, iniziarono a diffondersi i consorts, che erano degli ensemble per sole viole. E parallelamente arrivarono anche i broken consort, che mischiavano altri strumenti, ad esempio liuto o clavicembalo. Quelli che vi faccio sentire adesso sono dei consort music di appunto non broken, quindi sole viole. E nel particolare l'ensemble di cui parliamo è un ensemble un po' sui generis, perché a guidarlo c'è Jordi Savall, di cui vi parlerò un po' meglio dopo, perché è un guru della musica barocca e antica che non posso ignorare o non posso non parlarvene un po' più approfonditamente. Questi due pezzi, che sono abbastanza piccoli, sono dell'Elizabethan Consort Music. Il primo è di Clement Woodcock, l'autore e il compositore, e il pezzo si intitola Browning My Dear. E il secondo in realtà è invece di un anonimo, non si sa chi l'abbia composto, e il titolo è Desesperada. La trascrizione di questa musica è stata fatta da appunto questo ensemble capeggiato da Jordi Savall, un esecutore gambista e non solo, contemporaneo, catalano, e è stata fatta questa trascrizione da un manoscritto del 500 per musica di corte. Manoscritto che si trova in Inghilterra e che racchiude un po' quella che era tutta la musica per consort dell'epoca, o perlomeno una buona parte, destinata a essere eseguita alla corte di Elisabetta. E quindi è un documento anche storicamente piuttosto interessante, è stato trascritto con un rigore filologico secondo me veramente apprezzabile. E quindi grazie a questa opera ve la potete ascoltare adesso nel 2016. Thank you. questa era l'Elizabeth and Consorts Music di Jordi Savall e era il manoscritto di cui vi parlavo, raccoglieva musica scritta e suonata tra il 1558 e il 1603. La viola da gamba continuò a essere molto usata anche nei secoli dopo, fino al XVIII secolo, in particolare appunto come abbiamo visto attraverso i consort music. In realtà a partire dal XVIII secolo iniziarono a svilupparsi altri tipi di esecuzione, non la viola da gamba non veniva suonata soltanto dentro i consort, o comunque non maggiormente, cioè non più abitualmente solo nei consort, ma come strumento solo, ovvero si ritornava un po' alle origini medievali e tardo rinascimentali, meglio, quando la viola da gamba veniva suonata da sola. La musica dei consort probabilmente è un po' di un po' più difficile ascolto per il nostro orecchio contemporaneo, almeno secondo il mio gusto sì, mentre i componimenti per viola sola, per esempio primo fra tutti quelli di Marin Marais, ci suonano forse più amichevoli e affini. C'è un film del 1991 che si chiama Tous les matins du monde, tutte le mattine del mondo, tratto dall'omonimo romanzo di Pascal Quignard, che narra la vita di Marin Marais, un altro famosissimo compositore esecutore di viola da gamba, e parla di tutta la sua vita, più che altro nel periodo in cui lui era apprendista e imparò a suonare la viola da gamba dal maestro Monsieur de Saint-Colombe. È un film secondo me veramente bello e ve lo consiglio, anche se non siete appassionati di questo genere musicale o di questo strumento. È uno di questi film musicali, mi viene da pensare un po' a Amadeus, per fare un paragone azzardato, ma dove viene spiegato in maniera sottile però molto interessante il rapporto tra allievo e maestro e il duplice filo che li lega di amore e odio. Siamo rimasti appunto sempre su secoli abbastanza lontani. Oggi gli interpreti più importanti di questo strumento, della viola da gamba, sono il già citato catalano Jordi Savall. In realtà c'è anche un altro che è il belga Wieland Kuijken, che è un nome veramente impronunciabile, non lo dirò mai più, sappiatelo. Mentre appunto questo belga ha un nome brutto, di Jordi Savall invece, che il nome è anche più facile, ne parleremo spesso, appunto come vi anticipavo, perché sono una fan e quindi vi toccherà beccarvelo, ma anche perché più seriamente la sua opera di diffusione e ricostruzione storica di quella che era la musica barocca e antica è stata veramente fondamentale per una riscoperta di questo tipo di repertorio, soprattutto perché l'Ottocento e il Novecento hanno stravolto completamente questo genere musicale o questo repertorio in maniera secondo me veramente cattiva e perfida. Gli anni del ventennio fascista in Italia hanno dato un ottimo contributo, ma non solo loro, e le esecuzioni, anche quelle più famose di musica antica e barocca che trovate diciamo fino all'età contemporanea, occhio secondo me, perché molto spesso trovate della gran robaccia, cose anche completamente snaturate, capita spessissimo, ne parlerò spesso in questa trasmissione, perché è una delle mie fisime, capita spesso di trovare musica trasportata su altri strumenti. Il pezzo che avete sentito all'inizio di Tobias Hume, appunto cinquecentesco, di sola viola da gamba, se ne trovano le versioni fatte con l'ocarina o con altri strumenti del genere, che secondo me è un po' può essere un divertimento, ma è un po' aberrante. E così vale per il pianoforte contro clavicembalo. Molti pezzi a partire da Bach sono stati interpretati anche da musicisti enormi, ma al pianoforte, cosa che secondo me ne fa perdere un bel po', quantomeno lo spirito, e non ci fa apprezzare appieno quello che era il brano originario. Io in questo sono molto d'accordo con il rigore filologico di Jordi Savall, che se prova a attualizzare questo tipo di musica inquadrandola in un contesto storico che a volte è molto più simile al nostro di quello che pensiamo, allo stesso tempo ha una cura per la storia e per quello che poi furono il lavoro di questi compositori, che altri purtroppo nei secoli scorsi non hanno avuto. Ma basta parlarvi di Savall, di questo mio mito, e vi lascio con l'ultimo pezzo, Mare Mare, che abbiamo già citato, Le Badinage, un pezzo secondo me molto bello, dura poco, però vabbè, diciamo che con questo qui in realtà ci salutiamo. E si tratta appunto delle Badinage, tratto dal libro quarto dei pezzi per viola. L'esecuzione è sempre del sopra citato Jordi Savall. Thank you. E con questo ultimo brano di Maramarè vi saluto, vi lascio ai 3000 siepi dopo di me, tra qualche minuto, e vi auguro una buona domenica, continuate a ascoltare Wombat Radio e con La Fuga del Gatto ci risentiamo domenica prossima, sempre alle 16:30. Ciao! Si di cupidis mal sotto la gomma, e petti la forza.